affitto, no, non hai problemi. Bella profonda la modulation, senza problemi. Allora sì, sembra al solito posto, no? Yes, cappuccini. E come va di stare molto basso? Sto uscendo molto basso. Ah, sta uscendo molto basso. Eh sì, stiamo uscendo con forse neanche 10. Ma con 10 volte mi sa che l'altra volta ti ascoltavo meglio. Perché probabilmente stavo usando l'altra antenna. Aspetta che la cambio. Ecco qua. Con questa molto probabilmente mi senti un po' più alto. No, perché dici, ma questa va benissimo. Perché questa è l'antenna per la 27, capito? L'altra è l'antenna che passa attraverso l'accordatore, o meglio, la trasmissione passa attraverso l'accordatore da palo che mi accorda l'antenna che mi fa 0,30. Però chiaramente sulla 27 è un po' meno performante, ho già visto ci sono quei 7-8 punti meno. Arrivavi quasi 5, adesso sei sopra le 9, quindi va benissimo, 9 più 10. Tu pensa che sei 9-10 tu. Con l'antenna con l'HF invece mi arrivi a 9, quindi 10 punti in meno. Aspetta, adesso cambio l'antenna io, se mi senti con un dipolo. Vamos. Ecco, guarda, adesso com'è? Diciamo che balbetta il 9 più 5. Quindi è poca la differenza? Sì, pochissima. Nel tuo caso è pochissima, dipolo. Ma come ce l'hai orientato? Verso di me? Quindi sei aperto, diciamo, verso Porto Torres e quindi dietro, verso Sassari, o ce l'hai in un'altra posizione? No, è portato verso Sassari. Quindi ecco perché sennò sarebbe, mi sembrava veramente troppo poca la differenza. No, va di lusso. Quindi sei sull'asse longitudinale della Sardegna, dai, diciamo. Diciamo che è verso sud, come sono le parabole, dai. Sì, verso sud e verso nord c'hai il tuo raggio di propagazione. E beh, chiaro, no? Siamo verso sud. E si conferma. No, va bene, molto bello. In alto ce l'hai? No, purtroppo è basso, non posso sollevare. Papà, anche la carica dei 101 abbiamo. Avanti. Attenzione, binario 10, ascoltate il sud nord d'Italia. Che è sud nord? Buongiorno a tutti, buona domenica. Attenzione, Radio Vela, ascolti Luca qua, gatto. Mia moglie. No, dai, sono fatto così male mi vuoi, perché male mi ascolta, vabbè, siamo vicini. No, sto scherzando, fondo scala. Senti, a proposito, parlando di cose serie, e devi fare in modo di lasciarmi il tuo cellulare, perché è periodo di tinteggiature in varie case e ti può essere utile casomai fare qualche lavoro. Beh, prendi carta e penna, non ho problemi di darti il numero di telefonino. C'ho tutto io, c'ho tutto. Rulli ce li ho, la pannella ce l'ho, la Puglia c'è, tutto dipende se ci sono soldi, capito? Allora, segna, aspetta che abbasso un po' il letto, allora, 347 54 54 201, ripeto, 347 54 54 201. Perfetto, confermo, ok. Perché me l'ha fatto tornare in mente anche l'altro giorno Claudio, mi ha detto guarda, ricordati che per lavori del genere c'è anche Luca che lavora bene, ti hai fatto bene a ricordarmelo, perché è un periodo che ho sentito anche diversi colleghi d'ufficio che hanno intenzione di sistemarsi qualche stanza e stavano chiedendo un po' di nomi di persone che pitturavano, per cui ok, va bene. Oh Luca, eventualmente ti do uno squillo io. Io non c'è problema, dai, come si apprende. E poi io mi organizzo il tutto e non ci sono problemi. Allora, ripeto, se c'è da intonaccare, insomma, noi c'è qualche buco, si può anche coprire, stuccare, non è un problema. Poi se la parete grave, vabbè, poi vediamo, ho amici che sono bravi, A pitturare non ci sono problemi, questo te lo posso garantire. Poi del resto se è una cosa di muratura grossa, poi non la faccio io, ma già non ci sono problemi, dai, fammi sapere, io sono qua, disponibile, non un problema, capo. Perfetto, sì, no, la maggior parte sono, credo di aver capito, è la classica rinfrescata, quindi eventualmente tappare qualche buco di qualche chiodo, queste cose così, qualche tacca di qualche mobile spostato che ha lasciato inciso nella parete il suo passaggio, e di questo stiamo parlando, quindi ecco che sei tornato in mente tu. Ok, va bene Luca, poi io diciamo faccio sempre come al solito da tramite, contattata la disponibilità delle persone, poi sono le persone che si sentono tra di loro e si mettono d'accordo, va benissimo. Ok, cappa, rilanciamo il nostro Vega. Cappa, cappa, e che ci ne sia lontano. Allora, scusa, Salvatore, il problema è questo, che io non ho problemi, pulizia garantita, non sono il tipo che sporca, se sporca pulisce, perciò non uso neanche nylon, io basta che abbia un moccio fileda e poi il resto fa tutto da solo, gappa. Sì, ma per carità non mettevo in dubbio che il lavoro fosse portato a termine come da manuale. Ok, signori. Ok, detto ciò, questo me lo devo scrivere, me lo devo ritrascrivere in un foglio memo. Va bene. Oggi ho telefonato a quelli di Edison per avere la conferma del passaggio nella mia fornitura elettrica. A quanto pare è andato in porto. Vediamo un pochettino se riusciamo a risparmiare qualcosa. A proposito di mocio, io adesso, 5 minuti, se ci siete ancora, mi assento che passo il mocio qua in terra, dai. Adesso do il prodotto e così do una rinfrescatina anch'io qua dentro, che si muore, ci sono tanti gradi, più di 30 ci sono di sicuri, guarda. Dai, mi assento e rimango in ascolto, se ci siete 5 minuti, massimo 10 e poi ritorno, ok? Perfetto, siamo qua. Ma tu hai anche patentino? No, negativo, nessun patentino. Sono GB. Cappa. Ehi, ehi. Ho sentito ieri che il buon Fabrizio Chirigatto ha passato l'esame, ci hanno detto, e siamo tutti quanti felici. Sì, Bonettino, ci siamo sentiti con lui proprio ieri, sì, ma mi ha dato la notizia, sono contento, dai. Eh sì, buono, buono, una voce in più nell'etere non fa mai male. Tu ce l'avevi, mi sembra, se non ricordo male, vero? Sì, io l'ho preso alla fine del... aspetta, sto... non troppo. Scusa, sto facendo... ecco qua. Erano un po' troppi quelli che stavo utilizzando. Sono accorto che se non lo piloto adeguatamente l'accordatore da palo non lavora. Ok, l'ho preso praticamente l'ultimo tra domanda, richiesta, invio documenti, attesa, diciamo l'ultimo quadrimestre dello scorso anno, e mi è arrivata prima della fine dell'anno. Oh, no. Perché ci mette un pochettino per arrivare, lo so. Chi era che stava chiamando avanti? Sì, buongiorno, ho sentito la voce di uno di Luca, ma adesso faccia al 10, buongiorno, non sapevo che ci fosse. Ciao Gigi. Ma io ti dico pure a me la pena, Gigi Vulcano, vero? Positivo Pierpa, buongiorno a tutti, non so che ci sia, dai. È stato Luca del Monte, ma adesso faccia al 10 e io ho girato adesso. Ciao Gigi. Ciao Salvatore, buongiorno, non so chi c'è in ruota, ho sentito Luca che mi chiamava di passare al 10 e sono passato qua. Eia, io tu per Paolo e Luca, al momento. Ah, positivo, buongiorno a tutti allora, Luca l'ho sentito prima che ce l'avevo al telefono, ero qua che stavo facendo, riordinando un po' la stazione, la stazione mia. E ho sentito a Luca che mi ha detto fatta al 10. Avanti per te, Salvatore. Ah sì, sì, abbiamo sentito allora. Iniziamo a pulire e rientro fra 5 minuti. Ah, ma era Luca questo? Eia. È copiato Gigi? È positivo, positivo. Pierpaolo non ho capito, Pierpa, mi sentiva bambino, Pierpaolo. Ehi, dimmi. Ma sei in vettura, perché io ti ascolto forte. Il secondo forte, non so se sono forte. No, ti ascolto abbastanza bene io, tu mi senti basso, ma ti ascolto abbastanza forte, voglio dire. Mi devo chiudere questo microfono perché lo sto verificando e non so se va bene, G. Non so cosa c'è l'operata, io già ti ascolto, dai, ti ascolto, sembra bene. Con questo il CTE è normale, ma io ho fatto la modifica. Adesso devo chiudere perché sto facendo questa modifica. Che cosa gli hai fatto, se ti posso aiutare e dare una mano? Perché ne ho fatto di per sé io di modifiche. Ci ho aggiunto qualche resistenza. La 1008 l'hai messa? Sì, l'ho messa la 1008. Caffè, cosa ti sembra? Che va meglio? Ma innanzitutto non mi fischia più perché mi fischiava maledettamente col parlascolta. Adesso vedo che non sto più fischiando, quindi va bene, già, quello lì è una cosa a parte. Poi sento l'odorazione che è molto più aperta, dai. Spinge leggermente di più, dai, è vero, dai, è una modifichetta che faccio di solito io, dai, è una modifichetta che faccio di solito io, che sto facendo io, Pierpa. Capo, scusate un attimo che mi chiamano, riprendo fra un po'. Prego, prego. E a me Gigi come mi senti? Questo è il setup che sto usando per tutto. Per FM, AM, banda laterale, dai 1008 ad andare. Salvatore, che vuoi che ti dica, questo va benissimo. fa la grande, dai, e io di solito l'opero sempre questo, perché l'opero questo? Perché c'è un po' di tutto, però l'FM non mi fa questo, non ho capito, non me ne ero mai accorto, il giorno sono passato e non sento nessuno nel FM, e c'è qualcosa che non va, non è che non riceve nel FM, bisogna farlo controllare, ma questo perché 4 watt è normale, c'è con 4 watt e non do fastidio perché adesso c'è il supermercato aperto e con questo so che non do fastidio a nessuno. E di solito adopero sempre questo, dai, Salvatore. Ecco perché a volte ti sento basso perché adopero questo con 4 watt e niente. E per fortuna c'è solo con 4 watt e non mi interessa far uscire di più per farmi una chiacchierata qua, diciamo, una chiacchierata cittadina. Prego. Si ha registrato, avanti. Buona, c'è Luigi, ma c'è anche a te Salvatore. Ciao Anto, buongiorno, anzi buongiorno perché ancora siamo in mattinata e tarda mattinata, insomma siamo ancora di pomeriggio, ancora siamo in mattinata, capito? Buongiorno, comunque buona domenica. Avanti Salvatore. Ciao a tu, caro bambolo, ben sentito. Cosa stai facendo? Ti sento già affaticato, non mi dire che stai già trottando a tutto andare. No, sono tranquillo, sono a casa, tranquillissimo. Come affaticato? Ma senti il vento? Cosa c'è? C'è un aria sotto, sembra. Ecco, è acceso ciò. Giappa, come mi senti di segnale? Come ti... dunque, arrivi il 9.5, ma ti sento bene, no? Mi incuriosiva quel vortice che c'avevi sotto. Dove sta correndo lui o gli stanno correndo attorno? Prego, buongiorno. Avanti il break, Bordo Torres. Buongiorno, mi ascoltate, Sassari? Ho voglia che ti ascolto, avanti lui. Ciao, buongiorno anche da parte mia qua. Ciao Sandro, Santiago 1/1. Virgola, virgola, virgola, virgola, non lo vedi? Buongiorno signori a tutti. E sta arrivando Santiago 7 qua. Io confermo periodico 1/1. 1-1, 1-1. Oh yeah. Ciao Salvatore, buongiorno. No, sono qua a Sierra Sierra, dai. Tutto rientro in quel di Papatango. Ciao Gigi, se mi ascolti. Sei positivo, se io ti ho risposto vuol dire che ti ascolto. Per me sei Santiago 5 e Radio 12. E allora già va bene, dai. Già va bene Gigi, dai, stamattina ho fatto qualche accorgimento, ho messo la massa come deve essere messa e ho dovuto accorciare. Oh Sandro, complimenti, ho saputo che anche a te finalmente è arrivato il tutto. Ah, hai saputo, sì. Yes teacher, ieri in occasione della... che mi stavano aggiornando sugli esami di Faber e chiedevo proprio a Claudio, accidenti, rimane Sandro con questa odissea dei documenti, no, mi ha detto lui, mi ha confermato, guarda che poi gli sono arrivati tutto a posto, anche lui è uno di quelli che può andare avanti e indietro dove gli pare, dove gli batte il cuore. Chiappa di positivo, sì, è arrivato tutto un paio di giorni fa, dai, tutto chiappa di positivo, va bene, vai Gigi. E a proposito uno a Gianni di Coso, di Chiaramonti, mi è sembrato che poi mi serve Gianni. Gianni rimane in linea che poi mi serve. Sandro, ma hai fatto solamente qualche domanda? Mi interessa per una cosa, qualche domanda, qualche cosa, ma non hai fatto nessun corso, nessuna cosa. No, ti spiego Gigi, quando ero sotto, diciamo, in servizio, avevo fatto, diciamo, diciamo, il corso di operatore radio, diciamo, centralinista, chiamalo come vuoi. E poi mi era rimasto, diciamo, l'attestato, come avevo, diciamo, superato gli esami di operatore radio, e poi avevo saputo che tramite quello potevo ottenere, diciamo, tutto. Sì, sì, ma ne stavamo parlando, Giorgio, siccome io ti ho detto che quell'attestato c'era anche mio figlio, hai capito, Pier Paolo, che lui poi era passato lì a Vera Fiorita ed era, diciamo, a radiotelefono, come lo vuoi chiamare, lì ha fatto servizio per un anno lì al decimo reparto dei corterizi e carabinieri lì a Vera Fiorita, a Olbia, capito? E c'era anche Pier Paolo per quello, però solo a lui non gli interessa, se l'avessi avuto io me l'avrei fatto subito. Capa, e vabbè, se non interessa cosa, ma diciamo che a me è relativo, non è che io debba proprio andare a operare, l'ho fatto giusto così perché ce l'avevo fra le mani, è giusto anche se vuoi ottenere un apparato decente per essere, diciamo, in norma, tutto lì solo per quello, diciamo. Va bene, Giuseppe, Salvatore. Sandro, dove sei? Perché? Sto arrivando a porta qua, dove sei? Ma in questo momento sono sulla 131, Città Mercato. Ah, ecco perché. Sto arrivando 9:20 a Radio 5. Oh, scusate un attimo, ho lasciato a Gianni in fastidio. Gianni di Chiaramonti, portati un attimino al 12, così non diamo fastidio. Gianni, se mi senti di Chiaramonti, fai un attimino al 12, fai un attimo. Vai al 12, Gianni. Fatta, gatta. Ok. Stavo dicendo, Cazzarola, arrivi forte, forte, forte qua. Ehi capa, considera che ho un antennino, sarà un antennino a 50 centimetri, però insomma nel suo piccolo già va bene. Capa, e io forte ti arrivo, Sandro. Ehi capa, siamo vicini, dai, bello chiaro e limpido. Capa, avanti, Salvatore. Eia, siamo qua. Ascolta, Ossà, quindi completo di nominativo adesso, giusto? Positivo. Perfetto. E ci dobbiamo mettere entrambi al log, Ho già capito. Dico che quanto prima ci metteremo al log tutti e due e ci faremo una chiacchierata anche con gli altri sulle bande. Ah, ho capito, sì, vabbè, ma te l'ho già detto, Salvatore, per me, diciamo, l'ho fatto giusto per essere, diciamo, in linea, poi magari operativo capiterà magari qualche volta, così. Certo, sì, ma è la stessa cosa che ho fatto io, cioè non... Se poi passano, come nel mio caso, anche settimane senza accenderlo, cioè non ci faccio una malattia, tutto dipende dal lavoro, dalla voglia che si ha, e quindi il tempo relativo che bisogna metterci, però mi interessava avere tutto a posto e non incorrere in problemi di altro genere, ecco perché anche io avevo optato per la richiesta della licenza, della patente, ed essere in regola tutto lì. Poi è sempre piacevole fare che cosa? Fare comunque di QSO con persone distanti e farti una chiacchierata, quando può anche capitare che nel momento in cui hai voglia di fartela, sulla 27 non ci sono altre persone, e quindi ne approfitti, vai laddove c'è movimento, tutto lì. Certo, Salvatore, Ma diciamo che per noi, diciamo, un piccolo diversivo, diciamo, una piccola passione che noi abbiamo, diciamo, e così via. Sì, io logicamente l'ho portato avanti il discorso per stare, diciamo così, diciamo, a cuor sereno più che altro. E ti posso dire che attualmente, diciamo, non ho neanche l'antenna adeguata per dirti. Purtroppo adesso questo periodo del trabacco è quello che è, quindi figurati, non ho neanche il tempo materiale di potermi organizzare. Magari settembre, ottobre ci organizzeremo già diversamente. Adesso l'ho messo l'apparato, l'ho messo giusto qui nella mia piccola para pesante, giusto per fare qualche chiacchieratina durante, diciamo, i piccoli spostamenti, tutto lì, ma poi pian piano ci organizziamo anche sul resto. E certo, è certo, ogni cosa a suo tempo, con il tempo che si ha a disposizione per farla, assolutamente è così. Pian pianino, tu pensa che dovrò affrontare una riunione di condominio dove hanno messo all'ordine del giorno l'eventuale installazione e autorizzazione per la mia antenna. Guarda, è una cosa, mamma mia, gli ho già mandato una letteraccia di risposta. Che barba. No, è molto importante, è un capo condomino. Hai ragione. Ti è arrivato. Ciao Pomponio. Sì, Salvatore, ma figurati un po' che io l'altra sera sono rientrato dal tabacco, mi ha fatto una doccia, mi ho sentito il campanello di casa. Correttamente ho aperto per vedere un po' chi era. Oh, stai parlando al baracchino, mi stai disturbando il televisore. Io ero con l'accappatoio. Figurati un po', l'apparato non l'avevo neanche acceso. Gli dovevi dire che era un'antenna che avevi tra le gambe a fare Hai capito? Mi stavo per dire, no, è il mio stantuffo che manda segnali radio. Per carità. Quanto un po', buona con la portante. Che cosa bisogna fare? Adesso di vedere quando me ne dove bisogna mettere la portante, devi... e non fanno parlare il capocondomino, così almeno sta zitto, non c'è nulla, sta tranquillo. Ci sono fatto anch'io su questa cosa qua, ma devo fare una riunione per farmi attaccare le gaffe, il palo e l'antenna. Poi quando gli ho detto che rientravo qui a abitare, mi ha detto, dice, no, dice, tu se vuoi abitare qui devi abitare senza terza pianta della macchina. Hai capito? Dice, se un appartamento te lo affitti, mi ha detto, e fa la cosa, guarda che caga, io ho detto, vai. Aio, mi fate entrare o entro di prepotenza, gatte? Entri. Buongiorno. Buongiorno. Che ne fa, col typo, Luca? Attenzione, binario 45, anzi, binario 10, gatte. Ascoltate, Luca, qua, coordinate molto fratello. Gatte, no, 48, 48. Ehi, positivo il Caparroggio, eh. Come gira questo 48, Antonio? Cosa mi dice Antonio, Gap? Ma non volete, se lo prendo io si capota. Positivo il Caparroggio, dai, mi devo abituare con questo marrettino, Gap. Sai che attacco un po' il schermo, aspetta, ma attacco, come butto l'arrivo? Sai che è meglio. Positivo. Certo, se lo prendo io col baracchino non si capota. E quindi ti vuole fare il capo condomino. Esatto, preparati gli scudi. Capo ha registrato Luca. No, allora gli ho detto, dopo che poi le ho telefonato, le ho spiegato, perché gli avevo già dato la copia della patente proprio per evitare discorsi, però gli ho detto, guardi, che ci sono tutti gli altri condomini, stavano chiedendo perché lei ha fatto questo, ha fatto quell'altro, eccetera, eccetera. Gli ho detto sì, ma se lei voleva spiegare le norme relative alle installazioni e alle autorizzazioni che ci vogliono per le radio, le antenne radio TV, all'ordine del giorno doveva mettere un'altra voce, non autorizzazione per l'eventuale installazione dell'antenna di tizio, facendo nome e cognome. Perché questo non ha questo potere ancora oggi nessun condominio. Quindi, ma mi devo essere espressa male, ecco, allora, visto che si voleva esprimere meglio, rettifichi l'ordine del giorno e dica nota informativa relativamente alle installazioni delle antenne radio TV, così la gente sa qual è la legislazione e che cosa prevede a riguardo. E sai cos'è il problema? È che ti do una bella, perché in pratica tutte quelle antenne che c'hanno sono le indicatori. Il problema è l'estetica del palazzo, sono quelli il problema, non è altro, come l'hanno fatto anche a me, quando ha messo la Mantova. Allora era pietra pazzesca, che non va bene 27enne. Marco, se per ci contavo vieni, quindi noi cambiamo. Ah, che Luca. L'importante è essere in regola, perché quando ci sono questi parapiglia, quando vengono tu te ne sbatti le palle, allora prendi e cominci a denunciare cosa vai. Allora, di competenza e crea un casino nero. Allora con impara ai condomini di rompere la palle. Ma te lo rompiamo sempre, il discorso è questo, te lo rompiamo sempre. Io per quello mi sono messo le corna sopra il tetto, ho detto, come si chiama, quando me le guarda, ho detto, guarda, ho pensato le corna e se sono cornuto, gli ho detto. Cazzo. Tu fai quello che ti piace. Poi soprattutto lì non è neanche dove hai messo le antenne adesso, non è né del condominio né niente, è tua proprietà, quindi vedici, me ne dai ancora, vai cercare a fare il pubblico così sopra, che se l'avrebbe aiutato a calci in culo. Mi sentite? avanti. Purtroppo usando questo succede che c'è il ventilatore a 50.000 e c'è il microfono basso e purtroppo si porta il rumore del ventilatore, ma c'è con l'altro no. Ma non stai scendo bene, Luca. Vabbè, il ventilatore non vuol dire niente, dai, ci sentiamo benissimo. Ma adesso Giovanna ci siamo contratti e poi non ci può fare. Ma la verità non è ancora abita Giovanna, posso venire a lunedì, non devo passare qualcosa. Ci andrò di là senz'altro. E adesso ogni balza che fa? Sei giorni la mia. Poi vabbè, qua appunto l'app è cross, l'app è salda. E la zona non ha un messaggio. Un po' girarlo. Tutto qua. Bene, bene, che va bene. Salvatore, ascolti, cosa vuol dire? Possibilmente, siccome io ho avuto un casino, se è possibile, quando mi prima di chiamarmi, mi fai un messaggio, vuol dire che sei tu, perché c'è una cosa che non vado a male, chiama, siccome io sono uno, l'ho cancellato, questa è una ragazza, questo per chiarire, per farti capire cosa è, non è niente di... C'è un punto che mi stressi le spalle, scusa, tu l'ho cancellato, non mi ricordo più com'è. Cioè, è possibile che tu mi mandi un messaggio che sei tu e poi mi chiami. E poi corri, io riesco non ti risponda. Cioè, ma bianco per me! E K registra tanto. Ok Luca, facciamo così. Io all'occorrenza che mi chiedono quello che di cui abbiamo parlato prima, ti mando prima un SMS e ti dico. Luca, sono Salvatore, ti sto per chiamare. Vabbè, grazie Salvatore, molto gentile, così. Perché se non chiamarmi più, è stato in continuano. Ho detto, boh, io devo segnare il suo numero, perché l'ho cancellato, non ce l'ho più. L'ho segnato, questo se quando chiamo questa persona qua non rispondo. Perfetto, ok. Vediamo un pochettino, facciamo un riepilogo, quindi allora Antonio, quindi Bombolo è andato in bianco un attimino, Sandro si dovrebbe essere spostato di canale, Gigi pure, Pierpaolo era andato in bianco, non so se è all'ascolto, si è ripreso e poi ci siamo. Io, tu, Luca e Pomponio. Vediamo un pochettino, Pierpaolo ci sei rientrato? No, evidentemente no. Riprendi Pompo. Salvatore, non c'è più il 44, no? No, negativo, venduto. L'ho spedito 3 settimane fa. Passato per quella cifra? 4,20, sì. 4,20, poi mi è costato 30 euro di spedizione. Ma va bene, in ogni caso era un buon affare per tutti e due, per chi lo acquistava e per chi lo vendeva. È un tipo di Cagliari e gliel'ho mandato giù con Panai. Ascolta me, qua 3,20 con quello rispetto? Eia, quindi 3,90 diciamo mi sono rimasti. Se lo sapevo ci faccio un pensierino io per 400, là. Beh, alla fine, senza spese di spedizione, 400 sarebbe stato. Yes, purtroppo. L'avevo già detto da... Appena preso il coso, appena preso il Marco V, l'avevo detto che lo stavo vendendo. Forse non è capitata l'occasione e non è stata rilanciata il messaggio dagli altri, pensavo che lo sapesse tutti, ecco. Allora, il problema è che io, a me mi hanno detto che troviamo 4,20, avete considerato che ci faccio 30 euro, ci sono rientrati 3,90 in tasca, io troviamo 400 e ci avete guadagnato 20 euro. Sì, infatti era 4,20 compreso le spese di spedizione, è chiaro che togliendo le spese di spedizione non sarebbero state più 4,20, quindi se veniva venduto, acquistato in loco, che poi Luca, se una persona lo vuole comprare per 400 lo compra anche per 4,20, non possono essere 20 euro che sbilanciano un sì o un no, è una differenza troppo poca in questi termini. Sì, ma allora, e come se io ti dico, sto valendo questo apparecchio 300 euro, ok? Cacchi, io lo spedisco, questo qua, questo tipo sta per 300 euro compreso di spese. Cioè, praticamente ci sto spendendo soldi, io so, cioè, magari fai 2,70. Guardando 2,70 a questo, capisco da uno che c'è qua, cosa ne dici tu? so se sto perdendo io, cioè 300 più 7. Sì, ma assolutamente, ma io quando ho detto che lo stavo vendendo, io non mi sono messo, non mi sono posto il problema se era una persona di qua o se era una persona di là. È chiaro che se ci fosse stata una persona di qua che era interessata e mi avesse detto, Salvatore, visto che tanto lo stai vendendo a 4,20 compreso di spese di spedizione, ti va bene se io te lo prendo a 400, ma siccome nessuno mi ha fatto questo discorso. La radio, devo dirti che l'aveva riallineata e gli aveva dato un super sguardo Massimiliano e aveva verificato tutto quanto come da datasheet della Kenwood ed era a postissimo. Inviluppava benissimo, non aveva più dei picchi negativi quando aumentavo di potenza, era perfetta, perfetta. Poi con quel microfono da palmo, anche se era l'originale, in realtà non era mai stato utilizzato, e visto come che si sentiva, quindi era ottima. Poi gli avevo aggiunto i chip per la connessione al PC con il cavo suo, per cui era pilotabile e la pilotavo veramente bene con l'AM Radio, il software, ed era veramente molto molto molto comodo. E quindi diciamo il prezzo era, secondo me era un prezzo equo e andava bene. Non ci stanno problemi, purtroppo è andata così e via, vabbè, la prossima può capitare magari, ci avrei fatto un pensierino la verità, perché con questo va benissimo, questo è nuovo, bello, questo era di Claudio, però me l'ha dato, è rimasto, io non ho toccato mai niente, mai, mai, mai niente, nuovo, è nuovo, tutto bene. Ma tu ce ne hai uno tuo di 4,40 e ne vorresti prendere un altro, non ho capito questo. No, io non ho 4,40, io ho un 140, questo ce l'ho adesso, 4,40 non lo voglio, ma quello è Claudio, poi vabbè, c'è stato un mezzo, ho avuto delle spese, un po' mi sono incasinato, comunque ho provato a comprarlo, la funzione, però niente, non ho potuto perché ho preferito non prenderlo. Adesso vediamo, là, se riesco a guadagnarmi qualcosina adesso, in questo mese per luglio e agosto, ma lo tengo, perché mi dispiace veramente darlo, guarda. Chi è? E niente, adesso vediamo un po' da qua, se no. Ok. Vabbè. Rilanciamo il buon bombolo, sei rientrato, Antonio. Pompo. Sì, sono qua, non ci vedo tutto. Riprenditela. E via, qua. C'è un salmone in camera, non è caldo di scocca al monte. No, ci ho lanciato l'attaccato, non lo senti. Sto bene, non posso aumentare. Bene, oddio. Sono aggiornamenti in corso. Sto pubblicando le foto del... ecco. Beh. Le foto dell'apparecchio. Così dopo vediamo un po'. Mi metto una bacchetta. E vi dimuso. Parlare con 5 watt. No, 34. Quello 34 calare. da quando c'è 5 watt, come mai? Perché c'ha tutte le vite saltate adesso, infatti tu vai con cambia, mi hai di cambiare non so che cosa. Perché sta vibrando questo? Mi hai detto di cambiare non so che cosa, non so una pezza lì a farlo andare, che i finali nuovi si deve cambiare, ma devo vestire i finali nuovi. No, ci mi è capitato tu, ci facevo i cambiare i finali, quanto mi stesso si va a cambiare senz'altro. C'è una resistenza che non sta andando, in pratica non ti dai 5 watt, se non ci dai all'alto di male, capito? E quindi è quello, vabbè, allora, quando vuoi non c'è problema, io sono qua. Oh scusate, bianco per me un attimo che devo fare una commissione urgente. Sono qua, là. Ci vediamo un po'. Non ci stanno problemi. Avanti. Vado a casa, Alessi. E chi è? Chi è andato per la casa? Chi è che? Volevo una mattina, io parla e stazione. Okay. Io adesso mi sia... è incappato male quasi, qua sotto. Ha fatto la sala nuova, dalle 8 e mezzo fino a mezzanotte hanno lavorato. Torna a casa, Alessi. Sono stato da casa, sono andato via. Ho detto torna a casa. Ciao, Bacchisio, è barrato. Via, San Tomè. Ogni tanto già ti fai sentire, già sei vivo ancora. E allora? Adesso acceso, adesso vedo un po'. E ho sentito Alice abbaiare. Allora, come stai? Tutto bene, sì? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Qui dai. Ah, Tony, adesso ti volevo chiedere. Non so perché ho vissuto sotto tiro. E quelle miele che c'aveva l'amico tuo, Marco. Sì, quelle miele già funzionava bene. Cos'era il problema? Boh, pare che dopo tanto tempo che non l'accende, in pratica incomincia a sfiammare la... come si chiama? Il condensato di variabili, mi depende il 90. In pratica si forma quella pattina della polvere e quindi quando va a accendere comincia a fare vuole pulito bene con il ciclo secco e poi è acceso, proprio così anche il pulsante di accensione. Infatti era così, non so come l'ho preso da lui, quello lì. E c'è un coso spaccato, le cose che quello è un elettrolitico, no, condensatore. Il condensatore si è esploso. E più, un zio, uff! È logico che lo fa. Quando si è disaccordato che è cominciato a andare i cosi condensatori, in questo stato i condensatori che sono per poter fermini. Rischi di farli gonfiare e si possono crepare. Per quanto sto dicendo, quindi state da come accordi perché la verità può farlo con la Gigio e ti puto da tutti da me la usa i lineari di coso di come si dice quello che la notte dolce che mi ha dato il 704 mi aveva dato quando sono andato a accendere ho cominciato a sfiammare, sembrava un coso, sembrava, infatti ho dovuto cambiare tutti i pulsanti di accensione, spegnimento, tutti dovuti cambiare. E la malapparato mi sta facendo funzionare lì, proprio per il culo. Perché se non stavamo più piccoli ho dovuto adattarli lì. A quello di Giovanni Freccia. Capito? Dopo tanto terminare, prima li accendono bene, controllatelo bene, perché è un po' di tempo fermo, rischi di avere dei problemi. Ehi, i problemi ci sono, infatti. È andato su come acceso subito a fuoco, c'è a posto e funziona fino a ieri, ce lo stavo usando io, ma lo so fino a ieri. E tutto messo sul quadro, fili staccati, all'interno ci sono buchi di fili staccati, infatti l'ho portato da Vittorio giovane, e c'è la duia sotto le mani, vediamo un po' come metterà fuori. Ehi, Marchisio. Era. Tullio d'Episcopo. Ah, Tullio, sì, d'Episcopo, ma va bene. Ehi, mi ascolti, sì. Che ti ascolto? Come non ti ascolto? Io ascolto a tutti. Con gli orecchi o senza? Senza orecchi, coi piedi. Buongiorno, buona domenica, dai. Luca, qua, Monte Rosello. Ok, ciao Luca, buongiorno, ho ricambiato il tutto. Ragazzi, mi stai facendo fare due giri allo smittere, cerca di abbassare la situazione. Non ti abbasso, non niente da abbassare qua, Wacchi. Se mi abbasso io sono 1,76, se mi abbasso divento 1,60, io non mi voglio così basso, eh. Togliti i tacchi, vai senza tacchi, scalzo. Non li uso tacchi, no, mica su una femmina. Perché c'è Lessi che stava pagando? Sono etero al 100%, capito? Un eterosessuale, sì. Si siete connesso. Positiva K Roger, capito? Non ci stanno problemi, capito? Oh, io, batti, solo batti la radio, però ci sei basso di radio, eh? Questo qui adesso va andando e spegnendosi, capito? Bisogna che te lo dia al tonè a vederlo. Questo fa andando e abbassandosi e poi se ne va del tutto. Ma in trasmissione, in pratica si abbassa la radio. Questo è l'ultimo dei tre, è sempre fermo, è sempre dentro il cassetto, adesso ho messo in funzione. Vediamo qua che l'ultimo dei tre, a voi, grazie, ne ho avuto uno io, anche il Viking, tutta quella serie AM International, ne hanno fatto 5 o 6 diversi, ma all'altro poi ha fallito l'azienda, cioè buonanotte. L'unico problema di quello è l'oscillatore, l'autore di base è quello, una volta che l'oscillatore parte non c'è verso di farlo funzionare più. Se li mette sotto la rotta della macchina funziona? Però si batte, se va, non è il problema quello, capito? Stavo regalato uno di quelli lì, c'è la cosa, un amico ho regalato, un Concord era. Allora, lo dico proprio perché non mi è piaciuto quel tipo di macchina. L'ho avuto io, ma roba di coppia, pigliamo il direzzetto. La peggio della FM 500S era. C'erano gli di guerra con Marco, dovevo dare, lui c'ha un... cos'è quello lì? Ah, non mi ricordo. Che si può fare andare anche 45 metri. Dove lo vuole dare? Ma scusa un attimino, Pompo, ma non è peggio se li prendi tu i colpi? Scusa, meglio che li prendi il baracchino i colpi che piuttosto li prendi tu, capo? Io a quel periodo avevo un bel bici di casa, c'era Claudio, c'era Giuseppe Barazzè, Roberto, poi c'erano due ragazze che portavano il baracchino, poi dovevo dare la carina la notte, a modulare con questa, la notte, tutto il giorno. E ce n'è a cose, quindi avevo tante di quei abbattimenti che non avevo idea, capito? Ho dovuto attaccarmi, comprarmi un FT250, agganciarlo alla seconda antenna e l'unico apparecchio che facevo in trasmissione è una ricezione come sto facendo adesso, ma allora c'avevo l'FT250, a valvole 100 watt d'uscita, mica elettrico, era un buon bocca, mi sono pentito di averlo dato, la verità. Perché era bello, l'unico problema che c'aveva è che tirava certe scariche a coso, perché era senza massa a terra, che non era l'idea. Ma dimmi una cosa, il Mario Masse non l'ha più modulato, che fine ha fatto? Infatti ha smontato tutta la stazione della voce della Bevalina, adesso è in terrazzino, perché si è chiuso il terrazzino e non ha agganciato, cioè è andato a agganciare e ha bruciato il 440. E quindi non ha attaccato più niente. Adesso che non scendo io, solo che non ho mai avuto tempo tra una cosa all'altra. Adesso in questi giorni ci passo, io gli ripiazzo un po' tutto. Capito? Così è a posto. Vabbè, avanti Bacchino, ormai non sei al mare Bacchino, mettere i piedi a bagno. Ehi, capito. Allora, cosa c'ha Marco? Non è che cos'è, è un vecchio apparato, tu lo conosci? Sì, io non mi ricordo più la questo medicamento, adesso non mi ricordo, per cui c'è un qualche femmarino, un po' tattile, o... non mi ricordo più, se non vedo non ci vado da Marco. Prima di tanto andavo a vederlo, adesso non ci sto più passando, non c'avevo tempo, capito? Forse se non ricordo Luca, te lo ricordo che anche a te che c'aveva Marco, Alfa Romeo. Ma che non lo ricordo io, la verità, che marca era? Forse un Midland, no, forse un Midland, sì. Ho capito, cosa hai detto? Se ti ricordi che quando c'era usato Marco, quando muoveva la casa sua, uno... non ricordo se era un 120 canale, cos'era. Chi è Marco? Alfa Romeo. Ah, boh! Un attimo di bianco, arrivo subito. Venga, d'accordo. Quel balacchino fa di chi era? Di Marina, di Marina. Di Marina? Via Dicca, Dicca, te ne ricordi? Quel modello va da via Lao. Io non mi ricordo la marca, più Righes, gli altri lì erano, non... non mi ricordo, non mi ricordo la verità. Chi è chiamato a Bacchisio? Buonasera, Bacchisio. Qua sembra il bombolino. Già ce l'hai vicino già, oiaia. Ciao Tuma. Bomboli. Mi è scappata la luce, spiega. Buonasera a te. Buon pugno. Buongiorno anche a lei, dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ciao Maria. Buongiorno a tutta la rotta. Ciao Gio Maria, sei entrato. Mi stavo ascoltando, ma non è che possa parlare tanto, dai, buon proseguimento. Vi ascolto ben volentieri, dai. D'accordo, d'accordo. Avanti, macchisi. Ok, ciao Gio Maria, buongiorno, ben ascoltato. Ho la gaffa. Ma c'è sempre questo bombolino, tu, cosa, com'è? È ancora vivo, io pensavo che era morto, invece è ancora vivo, va. E vuol dire che ho fatto passare il DDT con la zona, a ver se l'ammazzavo, non hanno ammazzato. Sì, sì, siamo ammazzati così a mezza. Se non è abbassato il bombolino, bisogna che gli freghi tutte le bombole dalla moto carrozzella. Le ruote li togliamo adesso, la prima volta che vediamo la moto la mettiamo la testa in giù e togliamo fuori le ruote. E qua cerca la moto, vai. Il camioncino va bene lo stesso, non ti preoccupare. Te lo immagini, ma ecco se non è una bomba, quando scendi vai a mettere la moto e ti trovi tutte le quattro ruote attaccate. Ma già non succede quello, non ti preoccupare. Che prima di... prima di staccare le ruote di stacco la testa. A Napoli già lo fanno quello. Un filo di anche a Bobo ti fanno sparire a Napoli. Infatti ci lasciano il caso, il cane dentro. Adesso facciamo sparire anche a Bombolino, siamo la bombola. Furgone, bombola e Bombolino. No, è un pochettino difficile a prendermi le bombole quando sono su, È un po' di peso, ma con un cricchia si può fare. No, è difficile, anche da dove, come se fanno un cricchia ne scende già l'acqua dalla macchina. Accudisci un paio di cartoffe. Ah, riesce dalla macchina, che prima di scendere dalla macchina usaremmo Trento. Ci mettiamo un po' di attack nella portiera, non sa più. Uno già lo sa che ci sta in macchina quando io sono su. Io già lo so, già lo so. Grazie, se ne dico che ho fatto a quello che... e c'è alla fine della marmora, capito? Come è entrato dentro, non so cosa sta facendo, in ufficio, passa questo, ma cosa che a me l'ha fatto, passa questo, prende la bomba e si innalza, la bomba della bici l'ha pigliato. Ma è capitato su me. Ma di fondere no, non so scherzare. A toccare le bombole. Non parte, no, capa, certo di cui la bombola fianca, no, ma tutti non sanno. Che io non so che tu parla letto in macchina, fa bene. Tu dice davanti a me, ah, direttamente dall'ufficio suo, proprio lì. Lui è andato in ufficio, niente a consegnare, non so se era le bollette, cosa devo avere. Come passa questo davanti a me, prende una, la prima bomba che ti ha portato dalle piene, appena se la porta a via, se la messa in, in casa, ma capita così, Neghito? Certo, okay, magari la, la prima metà dopo di un di sera, non è il convenio, no? A pigliarmi in urano. Certo, perché che ti, c'è gente che ti guarda cosa stai facendo. Ma no, ti sto dicendo che non le conviene, perché io sono molto, molto, molto furbo anche. Una volta uno ci ha provato, ma di poco no, non gli arriva la bomba alla testa. Niente, dottoressa, mi siamo in crisi, e hai niente va a farmi, mi ha diventato con gli occhi, ma tu che bisogna avere adesso? Tanto non vanno a venire i supermercati a, a fare il fornimento alla gente. Se non per la saccoccia poi va fuori. E io gli ha anche da che? Sì, ok, dai, io li approfitto per passare il QRX. Ok, ciao Antonio, salutissimi, ciao Antonello, ci sentiamo, già, già venga trovato. E ciao Caggio Maria, sei ancora all'ascolto, anche agli altri ascoltoni che sono ancora sotto alle 10, Facchizio vi saluta, vi auguro ancora buon QSO e alle prossime. Ciao ciao! Ciao Batti, ci sentiamo, stammi bene. Salutami a Marco, la parte mia sono brito. No, bene, non vedo. Salutamelo di domandare un pochettino che c'è crisi, deve ilanizzare un po'. Sto dimagrendo, 180 kg. Già mi piace poco mangiare. Magari che non piace mangiare. Ma no, dai, bianco per te con il pacchiccio, bianco per lei che io mi allontano. D'accordo, a dopo allora. Chi è rimasto qua? Certo, ho fatto la modifica, dico una cosa un po' proposto, ho fatto la modifica al microfono, dice Maria, canto gli dai la radio, quella radio modificata, non so se l'hai sentita. Ma c'è le macchine, dove siamo visti? Ho cambiato il vento, però tutto non si chiama più. Quella radio esce che è una cosa impressionante. Non è stata la massa che l'hai messa? Così sta a capote. Ok, dai, ce la risentiamo. Via, ciao. Alla prossima, ci risentiamo. Ciao, ciao.